Martedì femminista autogestito. Far away from the cold night air. Assorando già ricevo a 87,9 da Sant'Anto di Resneu per quello di Radio Onda Rossa. My goodness, are there still feminists in Italy? E allora, quando sono le 17:06 del martedì 29 gennaio, inizia martedì autogestito da femministe e lesbiche. Sempre dagli 87,9, dalle 17 alle 23 vi accompagneremo in questo lungo pomeriggio. Volevamo iniziare con una lettura? Eh sì, piccole riflessioni che mi sono venute dopo, poi lo sentite, si chiama Matrimonio per nessuno. Domenica scorsa, rispondendo all'appello dell'associazione Marie Omelli, si è tenuto un presidio sotto l'ambasciata francese per il matrimonio per tutti, a sostegno del cosiddetto movimento che c'è in Francia in questo momento. Matrimonio per tutti, matrimonio per tutti, mi suona come una minaccia. Andrei piuttosto a un presidio in cui il slogan fosse matrimonio per nessuno. Mi farebbe sentire un vento di libertà. Ma domanda... Questo matrimonio per tutti è valido anche per chi non ha documenti? Sappiamo che in Francia chi si sposa con una persona senza documenti viene controllata anche a casa e soprattutto a casa per verificare che non si tratti di una truffa. E questo è il matrimonio che chiediamo, che chiedono. Questo matrimonio che ci chiede di vivere in due nel bene e nel male. Come mai una comunità di chi... che di fatto ha sperimentato altre forme di vita, che ha in mano una vera possibilità di cambiamento sociale, perché ha inventato per se stessa altre vie, unione libere, amore libere, relazioni basate solo sul desiderio, il piacere, il godere e non il dovere. Come mai le lesbiche chiedono per loro stesse il diritto a un'istituzione patriarcale creata per includere le donne? Capisco il sostegno da parte degli etero, che vedono attraverso il prisma del pensiero straight la felicità del matrimonio e la vogliono gentilmente condividere con noi. Ma preferisco il sostegno e lo scambio che lei e gli etero, che anche per loro non lo vogliono, di questo matrimonio e inventano anche loro altre forme più anarchiche di vivere storie affettive e amorose. Come mai le minoranze... per esempio le donne musulmane che sotto le spinte razziste e di destra chiedono per trovare un'identità e mostrare un'identità, il diritto di portare il velo praticato tra le più repressive dell'Islam verso le donne. Come mai le minoranze in generale, per sopravvivere arrivano a attivare e rivendicare per loro stesse le pratiche e i valori più costrittivi. Il successo degli integralisti e delle destre è di fare che i movimenti più rivoluzionari difendono i valori più reazionari della società. Sì.